finirà, finirà, finirà questa notte. Tornerà il mattino e tu te ne andrai. L'esigenza di viverti dentro si fa grande in questo momento. La tua steta buttata per terra e sei così bella. Sempre che tu mi vuoi bene, dimmelo sempre anche quando lo so, per i tornanti su fino al confine, spingersi oltre per perdere. Pensare con me sempre insieme, ma il prezzo è alto, il più alto che c'è. Chissà poi dove saremo fra un anno. Esta noche voy.